Che se io fossi Bruto, e Bruto Antonio, qui ora ci sarebbe un Antonio che squasserebbe i vostri spiriti. Mi stupisco di parlare per incantarvi, mentre vorrei liberarvi per confondervi. Mentre che l'uno spirito questo disse, l'altro piangeva. Letture di Radio 24. Un saggio pubblicato di recente dimostra come l'arte della calunnia, che da diversi mesi caratterizza l'informazione e la politica in Italia, fosse molto diffusa anche nella Francia dell'Ancien Régime. E negli scandali di allora, come in quelli di oggi, c'era un po' di verità e un po' di menzogna. L'impazienza di certi segugi dell'informazione degenera spesso in frenesia. Non vivono altro che per fare avanti e indietro lungo i pubblici viali, così da raccattare e da ripetere tutto ciò che si dice, tutto ciò che si stampa. E siccome vogliono credere a tutto, le mere congetture diventano realtà al loro sguardo. La corte, la città, le repubbliche, i regni, l'universo, tutto rientra nella loro sfera di competenza. Ma tanto più si sentono a proprio agio, quanto più si pronunciano sui ministri, sui generali d'armata e sui sovrani in persona. Resistiamo alla facile tentazione dell'anacronismo. Rinunciamo a pensare che questo ritratto dei gossipari, travestiti da giornalisti, sia stato abbozzato per l'uno o per l'altro segugio dell'Italia d'oggi di una firma del Fatto Quotidiano, un direttore di Libero o del Giornale. Guardiamo al luogo e alla data. Parigi, 1786. E mettiamoci il cuore in pace. Non è di noi che si sta parlando. La citazione è tratta da un volume di Louis-Sébastien Mercier, talentuoso coronachista della vita parigina nell'età di Luigi XVI. La si legge in un libro di storia appena pubblicato da Gallimard, che nulla c'entra, per fortuna, con i nostri feltri, né con le nostre farine, né con i nostri travagli. È l'ultimo libro di uno dei migliori storici al mondo, l'americano Robert Danton. Si intitola Le Diable dans un Bénitier, il diavolo in un'acqua santiera. Racconta l'arte della calunnia nella Francia dei Lumi e della Rivoluzione. Maestro di storia del libro e dei libri, Danton aveva dimostrato già in altri studi l'importanza della letteratura scandalistica nella crisi dell'antico regime. Al tempo dell'illuminismo, il settore più vitale del mercato librario fu rappresentato dalla cosiddetta produzione philosophique, fatta non tanto dalle opere dei pensatori di rango, Rousseau o Diderot, Voltaire o D'Alembert, quanto dalla paccottiglia dei libellisti. Adesso Danton ha seguito, oltre il fatidico 1789, fin dentro la Rivoluzione, il filo rosso di questa letteratura della calunnia. Pamphlet su pamphlet, vietati dalla censura, eppure circolanti ai quattro angoli della Francia borbonica. Scritti in forma anonima, stampati clandestinamente, contrabbandati verso le botteghe dei librai, smerciati sotto banco, letti a più non posso, e discussi ad alta voce lungo i moli di Bordeaux, di Marsiglia, come sui lungo Senna di Parigi, nei mercati, ai giardini pubblici, ma soprattutto nelle migliaia di caffè e osterie della capitale, là dove il vino annaffiava una filosofia spesso indistinguibile dalla pornografia. Pamphlet su pamphlet vietati dalla censura, eppure circolanti ai quattro angoli della Francia borbonica. Quando gli autori dei libelli venivano scoperti dalla polizia, correvano il rischio molto concreto di essere imbastigliati. Venivano rinchiusi nella fortezza parigina della Bastiglia, che anche così divenne un simbolo dell'oppressione ministeriale. Da qui l'abitudine degli autori del tardo illuminismo di emigrare oltre Manica per lanciare dall'Inghilterra strali avvelenati contro una Francia che si cibava voracemente dei loro scritti, eppure li condannava alla marginalità politica e sociale. Perciò il libro di Danton è una storia dei bassifondi culturali di Londra, quasi più che di Parigi. Un demi-monde di libellisti che erano anche disertori o bancarottieri, finti medici o falsari, preti spretati o magnaccia. Il governo francese infiltrava con agenti segreti gli ambienti di questo sottoproletariato intellettuale, cercando di comprare o di compromettere gli autori dei libelli, di rapirli, addirittura di ucciderli. Ma capitava che gli agenti stessi, ingolositi dalle prospettive di guadagno, si mettessero in società con i libellisti. Fino agli anni Ottanta del Settecento, il gioco della calunnia a mezzo stampa ebbe un carattere sedizioso, piuttosto che rivoluzionario. Ben inteso, il gioco era scopertamente politico. Il bersaglio erano i grandi, l'argomento era la lotta al dispotismo, l'assunto era quello di una monarchia francese minata dall'immoralità e dall'incompetenza. Sorprendente bestseller dei lumi, il gazzettiere corazzato di un tale Thévenot de Morande metteva in scena Luigi XV come un erotomane, un Priapo ricattabile, ricattabilissimo, dai suoi ministri corrotti come dalle sue amanti mercenarie. Ma prima della rivoluzione, il gioco della calunnia era anzitutto un gioco delle parti, meno ideologico che sarcastico, meno morale che teatrale. Un altro bestseller dei lumi tardivi, Il diavolo in un'acqua santiera, del marchese Lafitte de Pellepore, pubblicato nel 1783, è il libello che offre il titolo al libro di Danton, metteva in scena proprio Thévenot de Morande come il più infimo degli scrittoruccoli, mezzano di omosessuali e informatore di polizia. È a partire dal 1789 che la teatralità diventò moralismo, il sarcasmo diventò ideologia e l'arte della diffamazione diventò elogio della delazione. La polizia di Parigi svelata, un pamphlet del rivoluzionario Pierre Manuel, muoveva dall'equivoco personaggio di Lafitte de Pellepore per rappresentare la figura del buon giornalista come una sentinella infaticata e infaticabile, sempre di guardia contro gli onnipresenti nemici del popolo. 3 anni più tardi, cioè in pieno terrore, la vita segreta di Pierre Manuel, di un tale Pierre Turbat, raffigurava Manuel stesso come un volgare fabbricatore di dossier ricattatori e dunque benediva la sua morte sulla ghigliottina. Il sistema della calunnia funzionava così, di anello in anello, come una lugubre catena. Chi di libello feriva, di libello periva. Ma il sistema traeva la sua forza commerciale e culturale, la sua presa sul pubblico dei lettori, dal fatto che i libellisti non inventavano di sana pianta. Quello che raccontavano nelle loro cronache scandalose non era quasi mai del tutto vero, né era quasi mai del tutto falso. La più chiacchierata delle amanti di Luigi XV, la famosa contessa Dubarry, era effettivamente un'ex puttana di origini plebee. Lafitte de Pellepore era veramente un avanzo di galera che vendeva la sua penna a chi la pagava meglio. Quando anche si trattasse di fare di Luigi XVI un impotente o di Maria Antonietta una ninfomane. Pierre Manuel era un maestro fallito, proiettato ai vertici della municipalità di Parigi dallo tsunami della rivoluzione. Allora come oggi, l'arte della calunnia riusciva tanto più insidiosa, in quanto non era un'arte dell'impossibile e neppure dell'improbabile. Era un'arte del verosimile. La letteratura scandalistica consiste essenzialmente in rivelazioni sulle vite private dei personaggi pubblici. I gossipari del tardo Settecento lo avevano capito con 2 secoli e passa di anticipo sui gossipari del 2000. Sono i nomi che fanno le notizie. Al centro stanno i grandi e i loro punti deboli sono immancabilmente 2, il lucro e il sesso. Colpirli all'altezza del portafoglio o sotto la cintura serve a produrre reazioni viscerali, perché l'opinione pubblica, ci insegna Robert Danton, non è solo quella che piace tanto a Jürgen Habermas, incline a un dibattito razionale e capace di uno spirito critico. L'opinione pubblica funziona anche di cuore e di pancia. Si alimenta di emozioni e di pulsioni, non meno che di ragioni. L'opinione pubblica funziona anche di cuore e di pancia. Si alimenta di emozioni e di pulsioni, non meno che di ragioni. In questo senso, il demone scacciato dalla porta rientra malizioso dalla finestra. Quando si racconta la storia della calunnia nella Francia dei lumi e della rivoluzione, è pure di noi che si sta parlando, di una politica sempre più personalizzata in tempi di crisi dell'astrazione democratica, di un'antipolitica sempre più votata a una rappresentazione satanica dei potenti e di classi dirigenti sempre più vittime non soltanto dei calunniatori, ma di se stesse, del brutto spettacolo che si riflette tra le dorature dei loro specchi. Avete ascoltato la lettura di un articolo di Sergio Luzzatto dal settimanale Domenica, allegato al Sole 24 Ore, in edicola oggi.